La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al federalismo e a come è stato dibattuto dai due studiosi Carlo Cattaneo e Norberto Bobbio. Ospite ai nostri microfoni Nadia Urbinati, docente di scienze politiche alla Columbia University. Con la modifica del titolo V della Costituzione del 2001 si è messo in moto nel nostro paese il convoglio del federalismo, che ora è affidato, come sappiamo, per l'attuazione della parte fiscale ai decreti legislativi che attuano la legge delega approvata dal Parlamento nel maggio del 2009. In realtà le tematiche federaliste sono storicamente presenti nel nostro paese fin dalle sue origini, come mostrano tra gli altri gli scritti e il pensiero di un illustre italiano del nostro Ottocento, Carlo Cattaneo. È stato un grande intellettuale liberale del secolo scorso, il filosofo Norberto Bobbio, a individuare in Cattaneo una delle figure centrali del federalismo civile e democratico. Era il 1945, a Liberazione appena avvenuta, quando Bobbio pubblicò il saggio Stati Uniti d'Italia. Come scrive Nadia Urbinati nella prefazione al libro appena pubblicato da Donzelli, Stati Uniti d'Italia, Carlo Cattaneo e Norberto Bobbio, scritti sul federalismo democratico, non è esagerato dire che fu il segno di una svolta nella storia politica del nostro paese. Era la fine dell'anno accademico 1944-1945. Bobbio, che insegnava all'Università di Padova, aveva accettato di tenere un corso all'Istituto Giuridico dell'Università di Torino, poiché era vacante la cattedra che Gioele Solari aveva lasciato nel 1942. Bobbio tenne l'ultima lezione il 21 aprile 1945. Pochi giorni prima, il 18 aprile, era stato proclamato lo sciopero generale e pochi giorni dopo ci sarebbe stata la liberazione. «È stato l'interesse per Cattaneo», scrisse Bobbio, «a imprimere una svolta alle mie ricerche, dando avvio ai miei studi di storia del pensiero politico, quasi sempre legati all'attualità». Cattaneo è stato uno dei pochissimi intellettuali risorgimentali che non hanno mai potuto essere utilizzati dal fascismo. La sua concezione dello Stato è assolutamente agli antipodi della dottrina fascista dello Stato etico. Era invece il riformatore illuminato, le cui idee potevano sicuramente essere considerate la base della filosofia ideale per il programma del Partito d'Azione. Bobbio sottolineava come Cattaneo fosse, come lui stesso si autodefinì, veramente e incorreggibilmente federalista. Il federalismo è, nel suo pensiero, quasi un punto d'incontro delle sue esperienze culturali, delle sue aspirazioni, dei suoi sentimenti. Un federalismo solidale che per Cattaneo, osservava Bobbio, trascende i confini del problema italiano e diventa problema politico generale, da porsi con egual forza in Italia e fuori d'Italia, una soluzione universale al problema della convivenza civile, valido nell'ambito nazionale e in quello internazionale. E come tale, potremmo aggiungere, di grande attualità anche per i nostri tempi. Ecco come Bobbio, scomparso il 9 gennaio del 2004, rispondeva a una domanda sul ruolo degli intellettuali nel nostro paese. Gli intellettuali o arrivano troppo presto, quindi sono dei precursori, oppure arrivano troppo tardi, è come il famoso uccello di Minerva che arriva al crepuscolo. Io direi che negli anni 50-60 gli intellettuali dell'area laica sono arrivati in anticipo per quel che riguarda le battaglie per i diritti civili. Allora si diceva per difendere la libertà. Una battaglia che è stata combattuta su due fronti, sia nei confronti dello stalinismo, che non bisogna dimenticare allora era imperante, sia nei confronti anche dei tentativi reazionari degli Stati Uniti che passavano sotto il nome ben noto di maccartismo, e poi in modo particolare in Italia quando si sono difese strenuamente le cosiddette regole del gioco, soprattutto nei confronti della legge elettorale maggioritaria del 1953, detta legge truffa. Il personaggio emblematico di questa battaglia è stato Piero Calamandrei. Per quel che riguarda invece lo sviluppo economico, invece bisogna riconoscere che siamo arrivati in ritardo. Lo sviluppo economico italiano ci ha preso di sprovvisto. Ce lo siamo trovati, diremo così, alle spalle senza che noi ce ne fossimo accorti. Abbiamo in linea la politologa Nadia Urbinati, che è docente di scienze politiche alla Columbia University di New York. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Nella prefazione a questo interessante libro pubblicato da Tonselli, lei appunto inserisce questa liaison, questo legame diretto tra Bobbio e Cattaneo sul filo del federalismo, che poi da noi è di stringente attualità, anche se obiettivamente il discorso sul federalismo italiano è tutt'altra cosa. Ecco, cosa unisce Bobbio e Cattaneo? Dunque, lo stesso Bobbio, nella sua autobiografia e in altri scritti, e poi anche nella cura che ha fatto delle opere di Cattaneo, ci dà l'indicazione di quali siano i fili che uniscono questi due autori, che si collocano all'inizio di grandi trasformazioni per il nostro paese. Cattaneo e Bobbio hanno in comune una fiducia solida nella ragione umana, nella capacità investigativa, razionale, empirica, della nostra conoscenza, della capacità che abbiamo di metterla al servizio del bene comune. Quindi questo legame illuministico che è di entrambi. La seconda cosa che hanno in comune è la forte fiducia nei diritti individuali e nel liberalismo come non soltanto mezzo per governare secondo la legge e con i limiti del potere, ma anche come una visione della vita che è basata sulla limitazione umana, sul rapporto con gli altri tra uguali, il commercio, la relazione con gli altri. Terza cosa che hanno in comune è l'idea di una democrazia non estrema, ovvero diretta, ma moderata dai limiti costituzionali con la rappresentanza e soprattutto articolata per grandi autonomie locali. Come mai Bobbio decide di dedicare le sue riflessioni a Cattaneo nell'aprile del 1945, quindi pochi giorni dopo la liberazione? Stesso lo racconta nell'autobiografia ed è molto rivela molto di lui, poiché appunto ancor prima che la liberazione avvenisse si trovò per le mani le opere di Cattaneo curate in precedenza da Bertani e cominciò a leggere, si tuffò, come dice lui, venne preso da questa lettura e pensò con grande lucidità politica di curare un'edizione, ma non di scritti in generale, bensì di scritti sul federalismo, quindi prima della liberazione, quando ancora doveva essere disegnata la struttura dello Stato italiano. Bobbio dà un'indicazione, è un'indicazione che lui dà prendendola da uno dei padri fondatori dello Stato unitario, quindi ha un grandissimo rilievo questa collezione di saggi che Bobbio produce, cura di Cattaneo, grandissimo, perché ha un valore sia ovviamente storico, politico, culturale, sia profondamente d'azione, di indicazione politica. Ecco, come si traduce questo federalismo di Cattaneo riletto da Bobbio in un periodo in cui, appunto, come lei diceva poc'anzi, ancora si doveva disegnare l'architettura costituzionale del nostro paese? L'indicazione a me sembra estremamente chiara ed è Bobbio stesso che la suggerisce, ovvero la forma dello Stato dovrebbe essere più ricettiva possibile della organizzazione democratica del potere. Quindi uno Stato organizzato per autonomie larghe, ampie, è uno Stato che meglio degli altri può stimolare l'interesse del cittadino per il bene comune, che comincia sempre dal paese o dalla città o dal quartiere vicino a noi, Controllare il potere, poiché il potere bisogna vederlo sotto gli occhi per poterlo controllare. In terzo luogo, creare una specie di diciamo così, di struttura a gradini per arrivare dalla periferia al centro. E questo è fondamentale per la democrazia moderna in ampi stati, in grandi stati, dove altrimenti si hanno poche opportunità per un controllo sul potere che non sia ovviamente solo istituzionale o costituzionale. Quindi Bobbio proponeva anche una forma partecipativa come strumento di controllo, benché non di partecipazione diretta, ma attraverso la vita locale del proprio comune. Quindi più che la regione, il comune, il centro, come era per Cattaneo del resto. Quindi una serie di osservazioni e di riflessioni che appaiono di grandissima attualità. In sintesi potremmo dire che Cattaneo, e poi così come viene riletto da Bobbio, sono per privilegiare le autonomie, sono per un federalismo solidale che non è in contraddizione con l'unità del paese. Ecco, questo è un tema cruciale, che oggi sfugge ai nostri polpastrelli, diciamo. È un tema cruciale perché il federalismo è una politica di unione. Tutti i paesi che hanno creato una struttura federale sono passati da una condizione di disunione ad una condizione di unione. Il federalismo all'inverso non è federalismo, ma al massimo confederalismo oppure, diciamo, secessione. Quindi federalismo come politica di unità nel rispetto delle differenze e quindi di una grande, più grande libertà. Secondo, il federalismo non è un ideale utopico, utopistico o giacobino che si può imporre, ha bisogno del consenso. Fedus è un patto tra i cittadini e quindi come patto vuole l'impegno volontario, l'assenso volontario. Non può essere imposto, deve essere voluto da chi lo pratica, da chi lo attua. Quindi Cattaneo, che era un federalista rigorosissimo, perché ammiratore degli Stati Uniti d'America più ancora che della Svizzera, lui pensava dopo l'unità d'Italia, anzi dopo il 1865, quando venne disegnato l'organismo statale, la struttura dello Stato in maniera centralistica sul modello francese, egli comprese che a quel punto il federalismo, se doveva essere coerente, doveva portare la politica verso ampie autonomie locali, per non distruggere l'unità dello Stato, che a quel punto era stata stabilita. Professoressa, molte grazie e molti auguri per il suo lavoro. Grazie, grazie a lei. La storia e la memoria torna tra poco.